L'organisation, ça reste au niveau économique et politique. On parle jamais des gens en tant que peuple. Donc maintenant, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il y a des petits espaces de liberté. Il faut rentrer dedans. Il faut pousser. Auguriamo una buona serata a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Default, ancora con questa puntata di Whiskey Trip, blues e jazz sola andata. È aperto. Prova. Interruzioni tecniche, come ogni mercoledì gli alieni cercano di sabotare la nostra trasmissione. Ancora con voi insieme dalle 20:30 fino alle 22, un'ora e mezza insieme con la musica del blues e del jazz. Questo che abbiamo ascoltato in apertura era Thomas Dorsey. Siamo andati a pescare questo pianista, compositore della black music, del gospel, e adesso invece dalle sonorità di blues, gospel, di Thomas Dorsey, passiamo al pianista Lenny Tristano, alla sua band, al suo gruppo, con un pezzo che si chiama Line Up. Thank you. Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Default con Whisky Trip. Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Alessandro, di Antonio, qui con me, insieme con voi fino alle 22. Questo era Lenny Tristano, ci sono stati alcuni piccoli casini tecnici, ma siamo tornati in linea. Abbiamo ascoltato in apertura il gospel di Thomas Dorsey e poco fa invece questo era Lenny Tristano con Line Up, un pianista di Chicago, un pianista del cool jazz. E allora andiamo avanti con la musica. Il prossimo pezzo che ci ascoltiamo in questa nostra puntata in libertà tra il blues e il jazz, esplorazioni, si naviga tra queste sonorità, e il prossimo pezzo è di un musicista famosissimo, almeno per gli appassionati del jazz, ma non solo. È un pezzo di Miles Davis, si intitola Yesterday. Buonasera anche da me, amici ascoltatori di Whisky Trip. Come vi ha già anticipato Alessandro, puntata un po' in libertà, stasera spaziamo tra varie cose. Volevo intanto subito ricordarvi, così ci togliamo il pensiero, di aggiungerci sulla nostra pagina Facebook, che è www.facebook.com/whiskytrip, e proseguiamo dopo il grande Miles scelto da Alessandro. Proseguiamo con un altro grandissimo, che è Don Byron. Don Byron fa parte di quella serie di musicisti jazz saliti all'onore delle cronache durante gli anni 90 e divenuti artisti di punta della scena jazz newyorkese. Virtuoso del clarino e grandissimo improvvisatore, si colloca in quella scia di musicisti postmoderni molto duttili. Nella sua musica sono presenti componenti musicali tra le più disparate, che abbracciano il jazz, la classica, il rock e la musica klezmer. Il suo primo disco da leader è Tuskegee Experiments, che gli conferisce subito una fama incredibile e lo lancia nel mondo del jazz da protagonista. Il titolo del disco ha un significato politico e sociale, denuncia gli abusi avvenuti dal 32 al 72 nel Tuskegee Institute in Alabama su 400 cavie umane malate di sifilide. Gran parte degli ospiti dell'istituto erano contadini di colore, a cui non vennero mai rese note le proprie condizioni di salute, il tutto sotto l'egida del governo federale. Proseguiamo quindi da quest'album, la traccia è Next Love, su Radio Default. Thank you. questa era Next Love, il prossimo amore di Don Byron, un pezzo davvero molto bello di questo musicista contemporaneo degli anni 90. Allora, prima ascoltavamo Lenny Tristano, questo pianista da un suo stile davvero molto personale che univa il bebop alla musica classica, al cool jazz, e continuerei questo nostro viaggio di questa sera di Whiskey Trip con un altro pianista, anche lui molto famoso, un grandissimo giocatore di ping pong, e il pezzo che ascoltiamo si chiama Blue Monk e credo che abbiate capito di chi sto parlando. Parlo di Thelonious Monk e ci ascoltiamo questa bella versione live, da un live degli anni 50 at the Five Spot. Thelonious Monk in Blue Monk su Radio Default. Thank you. eccoci tornati in diretta, amici. Come diceva Alessandro, a microfoni spenti, parlavamo di jazz obliquo, ma no, non ride Alessandro, perché sono cose che magari non potete capire. Magari faremo una puntata proprio su jazz obliquo. Intanto, amici, vi salutiamo tutti, siete tantissimi, numerosi. Vedo proprio, leggo i dati ufficiali, abbiamo stracciato i record di ogni trasmissione di Radio Default con 4.364 ascoltatori connessi, e mando un grosso abbraccio a tutti. Salutiamo Paco dall'Argentina, sempre il nostro amico Paco è con noi, ciao compagno. E guarda, visto che siete tanti, voglio fare un bellissimo regalo. Parliamo di Eric Clapton. Parliamo però di un pezzo da un live del Jets Montreux del 97. È il rifacimento di uno dei classici di sempre, cavallo di battaglia proprio di Clapton, Laila. Senza perdermi in chiacchiere, dico solo che la band è composta, oltre che da Clapton, dall'estroso Joe Sample alle tastiere, l'immenso Steve Gadd alla batteria, la leggenda Marcus Miller al basso e niente poco di meno che David Sanborn al sax. Cioè, capito che formazione? Ciao proprio ciao, Eric Clapton, Laila. Thank you. bit lonely. There's no one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Darling, please, darling, won't you ease my burden? Tried to give you consolation. Eric Clapton, Steve G- Gred, Marcus Miller, Joe Sample, in questa versione jazz di Laila. E prosegue il nostro viaggio nel blues e nel jazz il mercoledì sera, ogni mercoledì dalle 20.30 alle 22 con Whiskey Trip qui su Radio Default. E adesso abbiamo due pezzi uno dietro l'altro di una coppia stellare della musica jazz. Il primo è uno che con la sua tromba e con la sua voce ha insegnato a tutto il mondo a improvvisare, e parlo di Louis Armstrong. L'altra è Ella Fitzgerald, la regina del jazz, una che ha 60 anni di carriera, 40 milioni di dischi venduti, 70 album pubblicati, 13 Grammy Awards, una medaglia al valore artistico consegnata dal presidente Reagan. È veramente il meglio del meglio. Il primo pezzo allora che ascoltiamo è Louis Armstrong, When You Are Smiling, The Whole World Smiles With You. L'altro pezzo a ruota, famosissimo, uno il pezzo forse che se mi chiedessero che cos'è il jazz risponderei con questo pezzo. È un pezzo di Duke Ellington che ascoltiamo nella versione di Ella Fitzgerald, e è It Dominant Thing If Ain't Got The Swing. Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope. Ha ha ha! do I do I do I do I do I do I do I do I do I. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I do I do I do I do I do I do I do I do I. It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do I do I do I do I. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I. Don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I do I. It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do I do I do I do I do I. Eccoci tornati in diretta, cari fratelli di Whisky Trip. Apriamo un angolo dove, come abbiamo già annunciato sulla nostra pagina Facebook, che stasera facciamo ascoltare qualche picco della straordinaria carriera di Max Roach. Mr. Itat, Maxwell Lemuel Roach, nato a Newland il 10 gennaio del 24 e morto a New York il 16 agosto del 2007, è stato un batterista, percussionista e compositore statunitense. È considerato uno dei più importanti esponenti del suo strumento nella storia del jazz. Nel 28 il padre di Roche, che faceva il mezzadro in Carolina del Nord, si trasferì con la famiglia a Brooklyn, nel quartiere nero di Bedford-Stuyvesant, in cerca di migliori condizioni di vita. Max scoprì la batteria molto giovane, durante le funzioni alla Concord Baptist Church, nel cui coro cantava la madre. Iniziò subito a suonare come autodidatta, poi studiò musica, imparò a leggere le partiture musicali, dedicandosi anche al pianoforte. A 10 anni suonava nei gruppi gospel e si iscrisse ad un corso di batteria alla Manhattan School of Music. Nel 1941 il giovane Roach fu chiamato da Duke Ellington a sostituire per una settimana al Paramount Theater il batterista titolare dell'orchestra, Sonny Greer. Nel 1942 Roach, ormai musicista professionista, cominciò a suonare nella 52esima strada, la culla del nuovo jazz, nella Monroe Uptown House e successivamente al Minton Playhouse, dove ebbe l'opportunità di incontrare Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Il nascente movimento bebop influenzò significativamente il suo estro di musicista e di creatore. Quindi, allora, partiamo proprio da un pezzo magnifico del quintetto di Charlie Parker, che all'epoca comprendeva una formazione stellare come poche altre volte nella storia del jazz. Era composta da, appunto, Charlie Parker all'alto sax, Miles Davis alla tromba, Bud Powell al piano, Tommy Potter al basso e, appunto, Max Roach alla batteria. E quindi, ragazzi, su Radio The Fort, Charlie Parker, Donna Lee. Eccoci tornati, amici, scusate, intanto ci stiamo organizzando su... Si parla di jam session, a questo punto cominciamo a spargere un po' la voce, non diciamo ancora né quando né dove, poi se ci seguite potrete venire con noi e passeremo una bella giornata insieme il 25 aprile. Allora, continuiamo col nostro amico Max Roach, E arriviamo a questo punto a Clifford Brown. Max registrò diversi dischi con il grandissimo Clifford Brown. Clifford è stato un trombettista statunitense, fu uno dei capiscuola dell'hard bop e nonostante la sua carriera sia durata solo 4 anni a causa della morte prematura e improvvisa in un incidente automobilistico, Brown esercitò un notevole influsso sui trombettisti della generazione successiva, restando per sempre nella leggenda. E di Clifford Brown e Max Roach ascoltiamo Da Hood. Eccoci tornati, parliamo ancora, siamo in quest'angolo dedicato all'immenso Max Roach. Passiamo adesso a un disco cardine della storia della musica. Andiamo a parlare di Money Jungle, un album jazz dal pianista e compositore Duke Ellington con il batterista Max Roach ed il bassista Charles Mingus, realizzato per la nota etichetta discografica Jazz Blue Note nel 63. Il disco, ragazzi, ad oggi è riconosciuto come uno dei più importanti del jazz d'avanguardia. Fu registrato per il 60° compleanno di Ellington e, nonostante la sessione del trio fu tormentata da diversi problemi, su tutti una brutta lite proprio tra Roach e Mingus, è considerato da critica e appassionati uno dei migliori album di sempre. Tre tra i più grandi musicisti della storia abbracciano il jazz, trasformandolo in qualcosa di mai sentito prima. E da questo disco ascoltiamo proprio la title track, Money Jungle. Thank you. Allora ragazzi, abbiamo l'ultimo pezzo di questo angolo di Max Roach. Intanto vi saluto preventivamente perché non si sa mai. E poi cioè, siamo in chiusura, Alessandro, insomma, dopo la prossima traccia ha preparato un boogie woogie, come dimo noi a Genzano, genere che abbiamo inventato proprio noi a Genzano. E continuiamo adesso con sperando di aver riproposto alcuni dei momenti più significanti della carriera del grande Max Roach. Chiudiamo con una traccia tratta da un suo lavoro solista. L'album è We Insist, Noi Insistiamo, The Freedom Suite. È un album di musica jazz del 60 contenente una suite che Max Roach e il paroliere Oscar Brown avevano iniziato a sviluppare nel 59 in vista del centennale, nel centennale che era previsto, mi sembra, nel 63 della dichiarazione di emancipazione. La copertina dell'album, che mostra tre afroamericani seduti al bancone di un bar, presumibilmente per soli bianchi, mentre si voltano a guardare verso la fotocamera, e dall'altra parte del bancone un perplesso barista bianco si pulisce gli occhiali. Si riferisce al movimento per i diritti civili del popolo afroamericano e precisamente al sit-in di protesta tenutosi a Greensboro. L'influente The Penguin Guitar Jazz assegna al disco il massimo dei voti e lo ritiene opera fondamentale per lo sviluppo del genere free jazz. Max Roach, oltre che per la musica, durante la sua vita si è battuto notevolmente per i diritti umani e del popolo afroamericano, divenendone uno dei maggiori portavoce. E da questo disco ascoltiamo una traccia che vede Roach proprio tornare alle origini della sua gente, che lo vede padroneggiare i ritmi tipici dell'Africa e che culmina dal jazz in un vero e proprio assolo percussivo di musica africana che semplicemente accappona la pelle, ragazzi. E allora da We Insist di Max Roach ascoltiamo All Africa. E ragazzi, questa è la negritudine a pacchi da 6 che vi avevamo promesso. The beach has a rich and magnificent history, full of adventure, excitement and mystery. Some of it bitter and some of it sweet, but all of it part of the beat. The beach, the beach. They say it began with a chant and a hum and a black hand laid on a native drum. Bantu dopo Max Roach vi salutiamo, allora vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì alle ore 20:30, sempre qui su Radio Default. Un saluto e vi lasciamo con un pianista, Mad Luz Lewis, un pianista di Chicago che ha composto uno dei più famosi boogie boogie di sempre, e il pezzo è Honky Tonky Train Blues. Arrivederci alla prossima puntata di Whiskey Trip. scherzoni qui a Radio Default. Abbiamo detto che finivamo, invece non è vero, vi regaliamo un'altra traccia, pensate quanto sono buono oggi. Chiudiamo allora stavolta veramente, vi saluto, accontentate, è arrivata un'altra birra nel frattempo, Alessandro, cioè, stasera sta investendo tutti i suoi risparmi in birra, quindi capirete che la situazione già comincia a prendere una certa piega, quindi sì dai, basta musica e chiudiamo con un altro grande. Billy Branch che è una delle poche icone rimaste in vita del blues di Chicago, nonostante sia nato soltanto nel 51, credo, giù di lì, è riuscito a collaborare con molti esponenti di questo filone e ad oggi è uno dei turnisti più richiesti al mondo e la sua armonica è presente in più di 200 dischi. Ascoltiamo un pezzo dei primi anni 90 registrato insieme alla sua storica band The Sons of Blues e parliamo di Ground Man Cry e stavolta ciao per davvero ragazzi, a mercoledì prossimo. On someone who didn't want you. Have you ever spent days and nights wondering that there was some magic you could do? About a woman, one who could never be your own. And have you ever had dreams of ecstasy make you unhappy with what's at home? Have you ever Ascolta Radio De Volto. Padre, non credo all'inferno, non credo più al paradiso. Oh, per Bacco, in cosa credi di volare la smarrita? Il Radio De Volto.